Chiacchiere da bar nasce dalla voglia e dalla curiosità di conoscere meglio le persone che frequentano il caffè banlieue. Nulla di rivoluzionario. Ci incontriamo, ci mettiamo comodi al tavolino, con un bicchiere o una tazza davanti, e scambiamo parole. Quello che Chiara e Francesca fanno da ormai più di 3 anni, da quando hanno aperto il locale. L'unica novità è che le chiacchiere si fanno davanti a me e ad un microfono. Io mi chiamo Tommaso ed ero seduto proprio ad un tavolino del banlieue quando Francesca cercava di spiegarci le sue teorie a proposito delle chiacchiere da bar. Ma io stavo pensando, chiacchiere da bar, il referente è, ma no, ma sono chiacchiere da bar, come per, cioè, sai il modo di dire chiacchiere da bar? Come per dire, non so per non saperne leggere né scrivere, è così che si intende, no? Quando dici chiacchiere da bar intendi non sono documentato di questo argomento, non sono... È così. C'è una doppia valenza che sia per dire chiacchiere da bar è sminuente ed è per me negativo. Che sì, è anche in Heidegger c'è questa cosa di dire ogni persona si lascia trasportare, è una funzione del linguaggio meramente comunicativa, superficiale da un lato, dall'altro è la dimensione inautentica, dice, perché nella chiacchiera si parla sempre un po', a parte questa dimensione superficiale, anche impersonale si fa, si dice, si... Tutto si chiaro, no? Cioè, è molto... Allora vi aspettiamo presto per approfondire la questione, ma soprattutto per chiacchierare insieme. Come hanno già fatto Piero, Angelica, Veronica e Sergio. Grazie a loro per essere stati i pionieri di questa avventura. Nessuno può incassare quella sfida. I soldi dove stanno? Lettere. Scusa, però mio padre ha detto, pensare che ci è andata al contrario, perché non lo doveva finire. Però non li voleva adesso allora. Pareva che mio padre.